Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, Il Falsario. Il Falsario è il titolo, il sottotitolo La lotta quotidiana contro Satana. Stiamo facendo il capitolo secondo, che è intitolato Il Principe delle Tenebre. Come già vi ho detto, cari amici, questo libro è un libro contro il demonio, come deve essere, perché noi la battaglia la facciamo contro i tre nemici della nostra anima, che sono il nostro, la nostra carne, il nostro io egoistico, il mondo e il demonio. Ma sappiamo benissimo che mentre la carne e il mondo sono strumenti, il vero nemico è il demonio. Anche se quello che dobbiamo temere di più è la nostra carne, perché se noi non vogliamo, e quindi se non diamo il consenso, il demonio non può farci niente, quindi è la nostra sbadataggine, la nostra stupidità, le nostre tendenze peccaminose, il nemico, diciamo così, più pericoloso sotto il profilo operativo. Però non dimentichiamo mai che la carne e il mondo sono solo strumenti attraverso i quali il maligno vuole impadronirsi delle nostre anime. È lui che è l'oppositore di Dio. Satana vuol dire l'oppositore. Lui è l'avversario. Satana vuol dire avversario. Vedremo questi titoli naturalmente. Satana è l'avversario di Dio ed è il nemico dell'uomo. E quindi vuole costruire un regno alternativo a Dio, e quindi vuole possedere le nostre anime per avere dei cittadini, dei sudditi, degli schiavi di questo suo regno. Ecco, questo è l'obiettivo, insomma, del demonio. Proseguire fino in fondo nella sua ribellione a Dio per costruire un regno alternativo al regno di Dio. Questo regno sarà poi l'inferno, dove lui ha già i suoi sudditi, che sono gli angeli ribelli, e naturalmente come ha avuto il consenso degli angeli ribelli può avere anche il consenso degli uomini. Non li ha fatto, dipende da noi, insomma. Quindi è inutile stare qui a discutere se all'inferno quanti uomini ci sono, se ce ne sono, se ce ne non sono, dipende da noi. Certo è che se noi vogliamo possiamo rifiutare Dio, possiamo rifiutare il regno di Dio, possiamo acconsentire a diventare cittadini di questo regno di morte. La parola cittadini però non è giusta, potremmo dire schiavi di questo regno di morte. Abbiamo visto, cari amici, che la espressione principe delle tenebre, che il titolo del capitolo secondo, ha due significati fondamentali. Innanzitutto, la tenebra, secondo San Giovanni, è ciò che si oppone alla luce. Quindi principe delle tenebre vuol dire che è il principe, il capo di un mondo tenebroso, che è il mondo della menzogna, il mondo del peccato, il mondo della violenza, il mondo dell'oppressione, il mondo della schiavitù, il mondo della morte spirituale. Però la parola principe delle tenebre sta a indicare anche un aspetto fondamentale della tattica demoniaca, che è quella di nascondersi. Satana è un cacciatore di anime, quindi si nasconde perché se si mostrasse per quello che è ne avremmo orrore. Si nasconde e quindi il suo più grande successo, come diceva Baudelaire, è quello di convincere il mondo che lui non esiste e convincere noi stessi che lui non c'è. Ed è soprattutto nella tentazione che si nasconde, per cui la grande grazia che noi possiamo avere da Dio, se siamo sempre vigilanti nella preghiera, è proprio quella di accorgerci che siamo in tentazione, perché molte volte noi neanche ci accorgiamo che è una tentazione. E si nasconde come un cacciatore prepara trappole ed è pericolosissimo per questa sua capacità che ha di mimetizzarsi. In questo è molto aiutato dal clima culturale nel quale viviamo, di cui si parla poco del demonio, e se se ne parla male, se ne parla in termini inadeguati, non se ne coglie la pericolosità né la malvagità. Anche all'interno della Chiesa molte volte si sentono espressioni che ne negano o l'esistenza o la pericolosità o lo qualificano come un povero diavolo. Sappiamo benissimo, questi argomenti abbiamo già toccato tante volte, tutto questo naturalmente crea un clima di disarmo da parte nostra e quindi da parte su un clima molto propizio per insidiarci a suo piacimento. Ci siamo posti un problema molto importante, cioè come sia conoscibile Satana. A questo riguardo io ho sostenuto che Satana non è conoscibile con la conoscenza umana razionale, neanche mediante l'esperienza. Sì, si può conoscere qualcosa attraverso la conoscenza umana razionale. Infatti una certa conoscenza di Satana c'è anche nei filosofi, c'è anche nelle religioni non cristiane, quindi indubbiamente la ragione umana, tradizioni antiche, esperienze personali hanno portato a una qualche ipotesi sulla demoniaco nel mondo. Però se noi guardiamo le religioni non cristiane e anche le filosofie non cristiane, vediamo che il demoniaco è sì riconosciuto come esistente, ma poco conosciuto nella sua realtà vera. Cioè il demonio molte volte è elevato al rango di un dio, come se fosse un antidio, invece è una creatura. Molte volte il demonio non è colto nella sua malvagità. Insomma, diciamo così che c'è nella cultura umana, sia filosofica sia religiosa, una conoscenza del demonio molto approssimativa, molto impropria, molto debole. C'è la medesima conoscenza del demonio come la conoscenza dell'aldilà, insomma. C'è poca conoscenza. Perché questo? Cioè, il demonio è una realtà che va al di là delle prese della ragione. Cioè, il demonio non è una realtà sperimentabile, sperimentalmente verificabile, è invisibile. E va al di là delle prese della conoscenza umana, quindi la vera fonte della conoscenza del demonio è la Sacra Scrittura, è la parola di Dio. Alcuni dicono che anche mediante l'esperienza si può conoscere il demonio, soprattutto attraverso l'esperienza del male nel mondo e anche attraverso l'esperienza degli indemoniati. Indubbiamente, cari amici, ma tu per interpretare il male nel mondo, specialmente il peccato, e anche per interpretare la presenza del demonio negli indemoniati, hai bisogno della luce della fede. Diversamente questa esperienza non riesci a decifrarla. Quindi, cari amici, questa è la tesi che io sostengo, è che il demonio lo conosci grazie alla parola di Dio, grazie alla fede, cioè è Dio stesso che ci ha rivelato chi è il demonio. Infatti, cari amici, come già vi ho accennato, sia l'inizio del Vecchio Testamento, sia l'inizio del Nuovo Testamento, la Sacra Scrittura ci presenta la tentazione. La tentazione di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre e la tentazione di Gesù nel deserto. Cioè, è la scrittura che ci mostra l'attività del demonio, che ci fa sapere che lui è presente, ci fa sapere come opera, ci fa sapere la sua malvagità, ci fa sapere soprattutto chi è. E per essere più esatti, cari amici, chi rivela il demonio è Gesù Cristo. Gesù Cristo è il grande rivelatore della presenza del demonio. Questo è chiarissimo nei Vangeli. Perché nei Vangeli vedete l'esordio di Gesù Cristo nella sua vita pubblica e lo scontro con Satana nelle tentazioni nel deserto. Ed è Gesù Cristo stesso che ci mostra il demonio presente nelle persone che fanno il male. Quando Gesù dice: voi avete per padre il demonio. È Gesù che, avanzando con la sua santità e con la sua luce, costringe i demoni a manifestarsi. È Gesù che chiama il demonio padre della menzogna e omicida. Quindi, se possiamo e dobbiamo dire che è la scrittura in generale che ci fa conoscere il demonio, e in particolare Gesù Cristo che ci presenta il demonio, lo chiama il forte, il principe delle tenebre, il forte, colui che tiene soggetta buona parte dell'umanità, e Gesù Cristo descrive, interpreta, possiamo dire, la sua missione, la sua attività, proprio come quella di colui che è venuto a strapparci dalle mani del demonio. Ecco, il principe di questo mondo sta per essere gettato fuori. Queste sono le frasi di Gesù, cari amici, relativamente alla sua passione. Quindi è Gesù stesso che ci mostra chi è Satana nella sua pericolosità, come l'avversario di Dio e il nemico dell'uomo, dal quale lui è venuto a liberarci. Quindi chi è che si è fatto conoscere il demonio, cari amici? Non certamente gli esorcisti, non certamente le riflessioni umane e neanche le esperienze umane come quello dell'esorcismo. Come si conosce il demonio? Il demonio lo si conosce per rivelazione, cioè la parola di Dio che getta la luce sul demonio, ed è Gesù Cristo. È Gesù Cristo in persona, lui personalmente, la sua parola, la sua azione che ci fa conoscere il demonio. Anzi, Gesù Cristo indica nella liberazione dal demonio del genere umano l'obiettivo della sua incarnazione. È venuto per questo, per salvarci, per redimerci, per ricomprarci dall'avversario. Quindi è da Cristo che noi conosciamo il demonio, come è da Cristo che noi conosciamo l'inferno. Queste cose vanno ribadite con molta chiarezza. Quando si viene a dire, ma sì, l'inferno, non so, in questi giorni ne ho letta una che mi ha fatto veramente... Hanno sentita una addirittura a Radio Maria, dico, ma io non so, mi tocca di sentire ogni tanto qualcosa che mi fa venire, mi fa rizzare i capelli, no? Ma lasciamo perdere il diavolo in cosa da medioevo, ma io dico, scusate, ma dico io, se questa persona che ha detto questa frase a Radio Maria viene a confessarsi da me, gli dico, scusi lei, per i prossimi 5 mesi mi leggi 5 pagine della Bibbia ogni giorno. Dico, ma scherziamo, il demonio roba da medioevo, l'inferno robe da medioevo, ma tu sei un ignorante. Leggi il Vangelo. Chi ci fa conoscere il demonio è Gesù Cristo, dicasi Gesù Cristo. Neanche un apostolo, è Gesù Cristo. Chi ci fa conoscere l'inferno è Gesù Cristo, non la sua segretaria, Gesù Cristo. Chi ci dice che l'inferno è eterno è Gesù Cristo. Cerchiamo di prendere un po' più sul serio il nostro Maestro, il nostro Signore, il nostro Rivelatore, la sapienza del Padre, il Figlio di Dio. Il demonio e l'inferno non sono cose da medioevo, ce li hanno fatti conoscere Gesù Cristo, dicasi Gesù Cristo, Gesù di Nazaret. Proprio Lui ci ha parlato del demonio, della sua pericolosità, della sua malizia, del fatto che è il principe di questo mondo. Lui è Gesù Cristo che lo chiama il principe di questo mondo. Il principe di questo mondo sta per essere gettato fuori. Gesù Cristo è venuto a dirci, lui, dicasi lui, è venuto a dirci che è venuto per liberarci dal demonio e dall'inferno eterno. Quindi ora, cari amici, siamo in grado di affrontare il terzo paragrafo del secondo capitolo del falsario, che è intitolato, chi ha il libro, siamo a pagina 17, intitolato «È la rivelazione divina che mette a nudo il maligno». Non è roba da medioevo, è roba di rivelazione divina. Sei tu un rottame medievale. Dunque, la conoscenza del regno delle tenebre avviene mediante la fede, ripeto, la conoscenza del regno delle tenebre avviene mediante la fede. Certo che se uno non ha fede, lo credo bene, che dice che l'inferno e il demonio sono roba da medioevo. Né la ragione, né la scienza potrebbero dirci alcunché di significativo riguardo al demonio. Tu giustamente ti chiederai subito per quale motivo sia necessaria in questo campo una luce che viene dall'alto, cioè perché per conoscere il demonio ci vuole la parola di Dio. Ti rispondo dicendo che il maligno gioca un ruolo fondamentale e non marginale in quella storia della salvezza che ci è stata rivelata dalla parola di Dio. Ecco perché la parola di Dio parla del demonio, perché il demonio è un personaggio fondamentale della storia della salvezza, cioè è il nemico da battere. Ecco perché ne parla la parola di Dio fin dal libro del Genesi, Perché ne parla la parola di Dio? Perché la parola di Dio è la storia della salvezza. Salvezza da chi? Dal principe delle tenebre. E naturalmente va tutti i mali che lui ci ha generato col nostro consenso, il peccato, la morte, eccetera, la disperazione, tutto quello che volete. Dunque ti rispondo dicendo, cioè, perché la Bibbia parla del demonio, ti rispondo dicendo che il maligno gioca un ruolo fondamentale e non marginale in quella storia della salvezza che ci è stata rivelata dalla parola di Dio. Anzi, possiamo dire che se non si riconosce la presenza di Satana, la stessa azione salvifica di Dio nei nostri confronti resterebbe incomprensibile. Da che cosa infatti ci avrebbe salvato? Scusate, Gesù Cristo è Salvatore. Da che cosa infatti ci avrebbe salvato? Dal peccato e dalla morte, è vero. Ma entrambi non sono forse entrati nel mondo per invidia del maligno? Come dice il libro della Sapienza, al capitolo secondo, al versetto 24. Quindi, non c'è affatto da meravigliarsi che la presenza dell'avversario di Dio e del tentatore dell'uomo sia evocata dalla Sacra Scrittura nei passaggi fondamentali della storia della salvezza. Fin dalle prime pagine del Genesi, nel quadro pieno di luce di meraviglia della creazione, guardate che è la Bibbia che parla di queste cose, non l'ultimo romanzo uscito. Dunque, fin dalle prime pagine del Genesi, nel quadro pieno di luce di meraviglia della creazione, ecco che si insinua questo personaggio negativo che sotto le sembianze di un serpente incita la rivolta contro Dio, riuscendo così a privare l'uomo della sua felicità. Dunque la parola di Dio ci rivela che fin, e questo ce lo rivela fin dalle prime pagine della Genesi, che nel quadro straordinario pieno di luce del paradiso terrestre, ecco che c'è questo un personaggio negativo, simbolizzato da un serpente, il quale cosa fa? Incita la rivolta contro Dio. Incita l'uomo alla rivolta contro Dio. E così riesce a privare l'uomo della sua felicità. Questo ce lo rivela Dio. Ce lo rivela lo Spirito Santo. La catastrofe delle origini, con la quale l'uomo ha perso l'amicizia di Dio e la vita eterna, pensate che danno ha fatto, ci ha fatto perdere Dio la vita eterna, perché ci ha fatto perdere il paradiso. Non solo l'immortalità, la grazia, l'immortalità, l'incolumità, la impassibilità, eccetera, ci ha fatto perdere il paradiso, ci ha fatto perdere Dio e la sua visione. Ecco perché si deve parlare di catastrofe delle origini, con la quale l'uomo ha perso l'amicizia di Dio e la vita eterna, dando inizio a un'esistenza piena di tribolazioni. Tutto questo, cari amici, perché Dio ce lo ha rivelato. Tutto questo è avvenuto, ci dice lo Spirito Santo della Bibbia, sotto l'abile e astuta regia di Satana. Chiaro? Noi non potremmo conoscere nulla al riguardo se Dio non ce l'avesse rivelato. È la sua parola, non il sottoscritto. Sembra quasi che, qualche tempo fa sembrava quasi che l'inferno l'avessi inventato io, o l'avessi inventato Radio Maria, no? E che il demonio fosse un pallino di Radio Maria, ma scherziamo. Provate a fare una raccolta dalle parole di Gesù Cristo, poi vedete cosa trovate. È la sua parola, cioè la parola di Dio, che ci ha svelato la presenza di questo nemico potente e spietato che minaccia costantemente l'umanità. Lo stesso svolgimento della storia umana è presentato dalla Genesi come una lotta per liberare gli uomini dalla tirannia del serpente. Infatti, cosa dice Genesi, capitolo 3, versetto 15? Io porrò inimicizia fra te, il serpente, cioè Satana, e la donna. Fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa, cioè la stirpe della donna, cioè Cristo che nasce da Maria, ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Quindi, cari amici, tutta la storia della salvezza è profetizzata dalla parola di Dio come una lotta fra la stirpe della donna e la stirpe del serpente. Questa chiave di lettura di tutta la storia umana, proposta dal primo libro della Bibbia, viene ripresa in termini solenni e grandiosi dall'ultimo libro liberato, l'Apocalisse. Quindi c'è una lettura della storia profetica all'inizio e poi c'è un guardarsi indietro per vedere tutta la storia nell'Apocalisse, dove, appunto nell'Apocalisse, questa grande battaglia profetizzata dalla Genesi, fra la stirpe del serpente e la stirpe della donna, cioè fra Cristo e Satana, volge all'epilogo. L'Apocalisse ci mostra l'epilogo di questa lotta, che è la sconfitta definitiva di Satana e l'instaurazione finale del regno di Dio. Questa è la visione della storia che ci presenta la Bibbia, cioè la parola di Dio, cioè la sapienza di Dio, cioè Dio. Dio ci dice che la storia è questa lotta fra lui e il serpente, fra lui e Satana, e alla fine ci sarà la sconfitta definitiva di Satana e la instaurazione finale del regno di Dio. Vedasi appunto all'inizio Genesi 3,15, porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Questo è l'inizio della Bibbia, e alla fine la Bibbia ci descrive la sconfitta definitiva di Satana e la instaurazione del regno di Dio. Come vedi, Satana è un protagonista della storia della salvezza. Protagonista, sia pure in chiave negativa, cioè l'avversario da battere. È lui l'avversario che si oppone a Dio. La parola Satana vuol dire colui che si oppone. È lui l'avversario che si oppone a Dio e che soltanto la forza di Dio riuscirà a sconfiggere. Noi lo possiamo sconfiggere con la forza che Dio ci dà. Quindi, cari amici, attenzione, è la luce della rivelazione, non sono favole queste, è la luce della rivelazione che ci fa conoscere la sua presenza, la sua perfidia, i suoi metodi e la sua potenza. È la parola di Dio che ci indica le armi con cui possiamo combatterlo e che ci dà la speranza certa della vittoria finale. Senza la luce di Dio, se Dio non ce l'avesse rivelato, l'umanità non conoscerebbe il suo nemico che potrebbe agire indisturbato. Ora che ci è stata rivelata la sua presenza e la sua attività, gli uomini che hanno fede possono conoscerlo, combatterlo e vincerlo. Questo, cari amici, è il fine di questo libro, Il Falsario: conoscere alla luce della parola di Dio, combattere e vincere il maligno, il nostro nemico. Più intensa è la luce di Dio e più Satana è costretto a scoprirsi. È impressionante vedere nei Vangeli come l'entrata del Figlio di Dio nel mondo scuota e mette in agitazione il potere delle tenebre. Non appena inizio la vita pubblica di Gesù e Giovanni il Battista ha terminato di indicare in lui l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ecco che Satana in persona esce allo scoperto e affronta il nuovo Adamo, così come aveva fatto col primo nel paradiso terrestre. Da allora per 3 anni persecuzioni e seduzioni si alterneranno, fino all'epilogo, quando Satana entrerà in Giuda e per portare a compimento il grande delitto. Appena Cristo è apparso sulla terra, Satana l'ha affrontato, perché sapeva che aveva i giorni contati. E ha cercato di eliminarlo. entrando in Giuda e orchestrando la passione e il grande delitto. Gesù è la luce del mondo. La sua luce splende nelle tenebre. Egli mette in chiaro i pensieri nascosti degli uomini e il loro ispiratore, che è il maligno. La sua parola divide il bene dal male, le azioni buone da quelle malvagie. O si è con lui o contro di lui, o si serve Dio o Mammona. Con la comparsa di Gesù, Satana è costretto ad uscire allo scoperto. È come quella serpe di cui è stato trovato il nascondiglio. Tu alzi il sasso ed ecco sotto la serpe. Il suo morso è sempre pericoloso e mortale, ma ora tu sai che c'è e come si muove. Chi sta saldo nella fede non cade nei raggiri del nemico. Ecco, cari amici, purtroppo è scaduto il tempo, ma ritorneremo ancora su questo concetto. Vedete, cari amici, che chi ci mostra Satana, chi ce lo rivela, è la parola di Dio. In particolare è Cristo in persona. Solo dalla parola di Dio e da Cristo noi sappiamo chi è il maligno, qual è la sua